Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di industria farmaceutica, di farmaci, di pillole, di tutto quello con cui abbiamo a che fare spesso e malvolentieri, perché prendere una pillola magari risolve tanti problemi, però vorremmo tanto farne a meno. Ma l'industria farmaceutica è una cosa importante anche perché ha fatto grandi progressi e ha risolto tanti problemi. Ne parliamo con Francesco Costantini. Buonasera Costantini. Buonasera. Francesco Costantini, e diciamo che è nato con la farmaceutica perché è laureato in farmacia all'Università di Pavia, è stato manager presidente di grandi società farmaceutiche, è stato anche presidente di Farmindustria, che è l'associazione delle imprese farmaceutiche italiane negli anni 90, è stato proprio presidente di Farmindustria e ha raccolto in fondo questa esperienza in questo libro che parla della storia dell'industria farmaceutica italiana e dei suoi protagonisti. Quindi non è una storia, ma sono storie. Esattamente così, sono storie. E sono storie nate da un'osservazione, se posso. Prego. Allora, un anno fa mi sono imbattuto in una statistica. Le prime 10 aziende farmaceutiche del mondo, americane, svizzere, francesi, inglesi. Le prime 20 includono anche giapponesi e tedeschi, nessun italiano. Eppure l'industria farmaceutica italiana esiste. Ci sono rimasto male. E mi sono chiesto, ma qual è la ragione di una tale situazione? Perché l'industria farmaceutica italiana, che è stata brillante in passato, non figura tra le prime 10 del mondo? E ho trovato le risposte. Ecco, allora ce le può anticipare. In questo libro lei certamente ne parla, ma le anticipi a chi vuole poi leggerlo. Allora, le risposte sono tante, ma per la legge di Pareto tanto vale stare alla prima o alla seconda delle cause, che sono poi quelle che rappresentano il 90% della verità. La prima verità è che l'Italia, purtroppo, non ha mai avuto una politica industriale nel campo farmaceutico, perché, per motivi anche comprensibili, il farmaceutico è sempre stato visto come un elemento di spesa, un costo per il Servizio Sanitario Nazionale. Non è mai stato visto, così come in altri paesi più brillanti, come invece un creatore di ricchezza che attraverso l'innovazione e l'afflusso delle royalties può produrre ricchezza per il paese. Questa è la causa principale. Ecco, quindi c'è questa causa di fondo che ha portato all'industria farmaceutica a non crescere, però resta il fatto che, come dimostrano queste storie, l'industria farmaceutica in Italia c'è. L'industria farmaceutica c'è, ma voglio allora raccontare brevissimamente due storie che dimostrano perché le industrie farmaceutiche italiane non fanno parte delle prime 10 del mondo. Le storie sono due grandi società italiane, grandi, la Le Petit e la Carlo Erba Farmitalia, che hanno scoperto farmaci di rilevanza mondiale. La Le Petit con il famoso antibiotico rifampicina, la Carlo Erba Farmitalia con il famoso antitumorale, le antracicline, che hanno invaso il mondo e sono un sollievo per pazienti affetti dal cancro. Ebbene, queste due società, invece di entrare nel gota delle grandi aziende mondiali, hanno preferito vendere a società straniere. Ecco, nella sua postfazione, Marco Vitale, tra l'altro il libro, lo ricordo, anche una prefazione di Silvio Garattini, c'è una postfazione di Marco Vitale, un grande economista di impresa, che dice come il fatto che appunto non si sia sviluppata in Italia la grande industria farmaceutica è dovuto al fatto che le grandi società farmaceutiche si sono affermate, hanno raggiunto posizioni di primato nel mercato globale, se localizzate in paesi caratterizzati da principi della libera concorrenza, normative sanitarie e giuridiche chiare mai contraddittorie, istituzioni politiche stabili, efficienti e caratterizzate dal senso dello Stato, società civili che accettano il profitto come fine dell'impresa e che rispettano le normative vigenti. Sono quattro punti che Marco Vitale sottolinea e su cui l'Italia è un po' carente. Francesco Costantini. Concordo su tutti e quattro e soprattutto sul terzo. E lo posso dire per esperienza diretta, essendo stato presidente per l'Europa meridionale di un grande gruppo americano. Tutti gli anni, quando c'era da fare grandi investimenti in giro per il mondo, oltre che negli Stati Uniti, privilegiata Gran Bretagna, seconda privilegiata Germania, terza privilegiata Francia. Il sottoscritto, che produceva bei profitti per la casa madre, era sempre lì a dire: «Ma perché a me date solo le briciole?» Risposta: l'Italia ha una situazione politica così incerta che c'è poco da fidarsi. Ecco, questo avveniva negli anni 80, 70, sì, 80? Sì, no, tutti gli anni 80. Possiamo dirlo ancora? Allora, devo dire che la situazione è migliorata. Negli ultimi anni i principi della libera concorrenza sono migliorati, l'intervento delle istituzioni al di fuori delle proprie prerogative è assolutamente diminuito, si è lasciato molto più spazio alla libera iniziativa e l'industria farmaceutica italiana sta veramente rinascendo. Siamo all'inizio del rinascimento dell'industria farmaceutica. Questa è una buona notizia, possiamo dire, anche se appunto Silvio Garattini nella sua introduzione precisa che in fondo l'Italia spende ancora troppo poco per la ricerca. Questo è un altro punto su cui bisognerebbe insistere, la ricerca. Farei una precisazione a Silvio Garattini. Spendiamo poco in ricerca in Italia. Non posso dire però che le ditte farmaceutiche italiane spendano poco nella ricerca, perché invece la ricerca, che ormai è diventata un fatto mondiale, perché tu i prodotti te li fai disegnare in India, li fai sviluppare in Bangladesh, ormai il mondo è tutta un'altra cosa rispetto al passato. Ecco, quindi vuol dire questo che le industrie italiane sono comunque già delle multinazionali tascabili, come si usa dire ogni tanto, però delle multinazionali. Beh, bisogna dire che in questo rinascimento dell'industria farmaceutica italiana ci sono 6 o 7 aziende che ormai hanno superato il miliardo di euro di giro d'affari, dal gruppo Menarini, prima di tutto, che è il più grande di tutti, a Ricordati, Bracco, l'ultimo al gruppo Chiesi di Parma, brillantissimo, e l'ultimo arrivato il gruppo Alfa Wasserman. Ecco, quindi ci sono questi elementi di eccellenza nella realtà italiana, una realtà italiana che sul fronte generale, caratterizzata dalle piccole e medie imprese, qui abbiamo delle medie imprese che si sono affermate, non sono delle grandissime imprese come grandi industrie farmaceutiche mondiali, tedesche, americane o svizzere, però sono imprese che giocano la loro battaglia all'interno del sistema sanitario mondiale, possiamo chiamarlo così? Assolutamente sì, e se lei leggerà il libro troverà anche... Speriamo che chi ci ascolta sia anche invitato a leggere il libro. Troverà 2 storie esemplari, ce n'è una più esemplare di tutti, ed è una ricercatrice italiana che, non trovando finanziamenti in Italia né dalle banche né dalla borsa, è andata a quotarsi al New York Stock Exchange e ha sviluppato un farmaco che oggi va alla grande. Quindi c'è questa storia, ci sono storie appunto italiane che, partendo dal piccolo, che approfittando poi delle nuove tecnologie, della comunicazione, della globalizzazione, della capacità appunto di magari di vendere i farmaci su internet, anche se forse è sconsigliabile acquistare i farmaci su internet. Tutto sconsigliabile. Ecco. Però farli conoscere può essere certamente un qualcosa di positivo, ampliare certo l'informazione in questa prospettiva. Quindi sono industrie che sanno anche usare l'innovazione. Certamente, usano l'innovazione. In passato sono state accusate di ridurre l'innovazione ad una forma di informazione medica e basta, quindi una forma di propaganda. Oggi invece l'innovazione da parte di tutte queste industrie, come giro d'affari dai 200 milioni di euro in su, fanno grandi progetti di ricerca. Ecco, progetti di ricerca, quindi guardando adesso questa realtà che lei delinea in questo libro Uomini e Pillole, questa realtà dell'industria farmaceutica, possiamo essere, non dico ottimisti, ma fiduciosi sulle possibilità dell'Italia di tornare ad essere un paese in ripresa, di tornare ad essere un paese che sa essere protagonista insieme agli altri, ovviamente. Perché? Certo che possiamo essere ottimisti, non solo fiduciosi. Come le dicevo prima, l'industria farmaceutica italiana si sta sviluppando alla grande nel mondo, si è internazionalizzata. Ormai le aziende che hanno superato il miliardo di giro d'affari di euro sono 6 o 7, non è più soltanto il gruppo Menarini che è il leader delle aziende farmaceutiche italiane. Ecco, e in questo senso lei è stato appunto presidente di Farmindustria, anche l'industria può avere, deve avere un'immagine diversa, molto spesso è stata appannata negli anni scorsi da piccole storie di piccoli affari. Allora, pessime storie di pessimi affari. Negli anni 90, in cui io ho fatto il presidente di Farmindustria, debbo dire che l'intreccio tra concussione e corruzione aveva sconvolto il settore. Le industrie farmaceutiche sono rinate dalle loro ceneri e questo lo debbono anche a Garattini, che le ha messe davanti alle loro responsabilità. Ecco, in questa prospettiva appunto è anche un esempio di una medicina che cura se stessa, possiamo dirlo così. Sono d'accordo. Un'industria farmaceutica quindi che ha ritrovato una propria strada, che ha ritrovato nel tempo anche la capacità di essere competitiva rispetto ai colossi internazionali, anche in un rapporto costruttivo probabilmente con i colossi internazionali. primari. Quale consiglio può dare a chi guida adesso l'industria farmaceutica e ai politici che devono comunque dare uno scenario di certezze, come chiede Marco Vitale, allo sviluppo di un'industria particolare come questa? Io darei due consigli. All'industria farmaceutica di continuare la strada che hanno intrapreso, che è la strada dell'innovazione e della internazionalizzazione. Sono tutte aziende che spendono molto, dedicano molto del loro giro d'affari all'investimento in ricerca e innovazione. Ai politici darei soltanto il consiglio, e mi sembra che l'attuale ministro della Salute sia sensibile a questo e si stia muovendo in questa direzione, di dare l'avvio ad un progetto di politica industriale farmaceutica in questo paese, col solo fine di considerare l'industria farmaceutica creatrice di ricchezza e quindi di arricchire il paese. È un'industria anche che può far risparmiare quando funziona, perché mantenere la gente sana è comunque un risparmio per la società. E le assicuro che i farmaci fanno bene alla salute. Presi magari con cautela e con qualche, appunto, in modica quantità, quando necessario, però servono. Seguendo le istruzioni interne che vengono impropriamente definite bugiardino. Ecco, magari leggendole, ma cercando appunto di poter essere in buona salute con o senza i farmaci. Questo è l'augurio che facciamo a quanti ci leggono, e anche questo libro può essere un aiuto ad avere fiducia nell'industria farmaceutica presa appunto in modica quantità. Grazie a Francesco Costantini. Grazie a lei. Di essere stato con noi questa sera. Ricordo il libro Uomini e pillole, storia dell'industria farmaceutica italiana e dei suoi farmaci, edito da Edra. Sono 176 pagine per 19 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.